giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Delegazione di architetti e interior designer statunitensi in visita per due giorni alle imprese artigiane friulane che producono arredamento e design di nicchia, un settore che grazie alla qualità del prodotto e al brand può difendersi dalle tariffe imposte da Trump. Il GIP ha convalidato l'arresto di Erika Podmenic, indagata per l'omicidio dell'89enne Isabella Tregnaghi. A Monfalcone la comunità islamica si ritrova per la preghiera del venerdì, ma i luoghi fin qui usati non hanno l'autorizzazione, come confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato. Avviate le ricerche nel pordenonese di un sedicenne allontanatosi da casa mercoledì pomeriggio. La regione ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Le lezioni inizieranno l'11 settembre e si concluderanno il 9 giugno. Intanto fanno discutere le novità riguardanti l'esame di maturità. La facoltà di medicina dell'Università di Udine ha avviato una collaborazione con l'Università di Ghana per istituire corsi di infermieristica. A Codroipo l'ex polveriera della Mangiarotti è stata trasformata in un campo fotovoltaico. L'inaugurazione questa mattina. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. L'imposizione dei dazi non ha chiuso definitivamente le porte al commercio con gli Stati Uniti. Una delegazione di imprenditori statunitensi è arrivata questa mattina in Friuli su spinta di Confartigianato Imprese Udine per visitare e conoscere da vicino le realtà artigianali friulane che producono per segmenti di arredo di alta gamma. Grande incertezza, ma affrontata all'americana con ottimismo. Non sanno al momento come commentare i dazi universali del 20% su tutte le importazioni imposti dal presidente Trump all'Europa, i 13 architetti e designer americani in visita al laboratorio CATAS di San Giovanni al Natisone. Qui si trovano i laboratori di prova del settore legno arredo, oltre 50.000 test all'anno. Secondo stime elaborate per noi da The European House Ambrosetti, per la filiera del mobile del Friuli Venezia Giulia ci saranno costi aggiuntivi per 73 milioni di euro che dovranno essere assorbiti dai clienti americani. Oggi l'arredo rappresenta da solo il 15,5% dei beni manufatturieri esportati dalla regione negli Stati Uniti, con saldo commerciale positivo pari a 359 milioni di euro. Per Coy Vo, amministratore delegato di ASID, Associazione degli Interior Designer americana, è tutto ancora nuovo per fare previsioni. Alcune realtà che comprano Made in Italy per arredare gli uffici faranno il possibile per assorbire i costi extra, altre dovranno trovare nuove strategie per assorbire parte di questo 20% internamente e scaricare l'altra parte sul consumatore. Business as usual per la designer Caroline Gama. Non modificherà di una virgola, dice, il suo rapporto con i clienti americani e i fornitori italiani. I 13 imprenditori americani sono qui invitati da Confartigianato e ICE, Agenzia per la Promozione all'Estero delle Imprese Italiane. Per Giusto Maurig, vicepresidente provinciale di Confartigianato Udine, potremmo assistere a un processo di riaggiustamento dell'offerta verso l'alto, verso prodotti di alta gamma, con conseguente venir meno di qualche operatore, un processo di ulteriore selezione del mercato. Elena Buttazzoni, imprenditrice che con la sua azienda artigiana produce sedie, esporta all'80%, soprattutto in America. La situazione ci spaventa, afferma. Ma bisognerà puntare sulla qualità. Fabrizio Trevisanutto, proprietario di un'azienda di mosaici di Spilimbergo, è più preoccupato invece dell'effetto dazi sul dollaro. Un decennio fa avevamo il dollaro a 1,50 sull'euro e i nostri prezzi aumentarono del 50%, allora senza che a noi venisse nulla in tasca, indica. Trattiamo un bene di lusso in un mercato di nicchia dove non è importante il prezzo. La filiera funziona molto bene solo se c'è ottimismo e l'economia che tira. San Giovanni al Natisone, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per Erika Podmenic, indagata per omicidio volontario dell'89enne Isabella Tregnaghi. L'89enne è stata uccisa con un profondo taglio alla gola con un coltello da bistecca. Ieri, durante l'interrogatorio di garanzia, Podmenic si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il suo legale aveva chiesto per lei domiciliari. A breve la procura di Trieste disporrà l'autopsia sul corpo della vittima. Attivate le ricerche del 16enne Mario Constantin Stefo, allontanatosi volontariamente dalla propria abitazione a Porcia nel pomeriggio del 2 aprile. Lo rende noto la prefettura di Pordenone precisando che il ragazzo è alto circa 1,85 m, pesa 80 kg, ha capelli scuri, occhi scuri, barba con pizzetto e nessun segno particolare. Al momento della scomparsa indossava un maglione a manica lunga color panna con una scritta sul davanti: Time for hiking, jeans di colore grigio e scarpe con bordature bianche, nere e rosse, portava uno zaino di colore verde. La prefettura chiede che chiunque abbia informazioni sul ragazzo contatti le forze di polizia. Oggi è il primo venerdì di preghiera a Monfalcone dopo le sentenze del Consiglio di Stato sull'impossibilità di usare i due centri islamici come luoghi di culto. Il venerdì, giorno di preghiera per i musulmani, a Monfalcone rappresenta la prova del 9. A 48 ore dalle tre sentenze del Consiglio di Stato che hanno di fatto ripristinato le ordinanze del Comune e quindi non sarebbe più permesso svolgere attività di preghiera, siamo stati a vedere se le strutture di Monfalcone, dove appunto si svolgeva la preghiera e dove fino a sabato scorso è stata celebrata anche la fine del Ramadan, siano effettivamente aperte e se si preghi davvero dentro. Per il momento le tre sedi appartenenti alle associazioni islamiche sono chiuse, dentro non c'è nessuno, ma è anche vero che sembra che la preghiera collettiva inizi nella tarda mattinata dopo le ore 13. L'intenzione è quella di aprire, ha detto Reyaul Haq, tra appunto i responsabili dell'associazione. I verdetti, dice, vanno rispettati, però si apre un'altra riflessione, cioè il nodo cruciale sarà il carico urbanistico da osservare. L'idea è quella di continuare a pregare, ma non in massa e soprattutto non occupando aree esterne. Diversa la posizione del Comune a partire dall'europarlamentare ed ex sindaca Anna Cisint, da cui un anno fa tutto è partito. La sentenza, dice, no, è chiarissima, non ci sono interpretazioni diverse. Questa volta hanno perso su tutta la linea, i locali vanno ripristinati secondo il loro uso originale, quindi uso direzionale e commerciale. Oggi in orario di preghiera, quindi, nel primo pomeriggio i vigili urbani visiteranno i locali per vedere il comportamento delle persone e capire poi eventualmente come agire. La sensazione è che non finirà qui. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La strada che porta al santuario di Monte Grisa a Trieste da oggi è intitolata Giovanni Paolo II. Alla cerimonia dello scoprimento della targa che ricorda il Papa polacco, accanto alle istituzioni cittadine c'era anche il Vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi. La sottosegretaria al MEF Sandra Savino, in qualità di assessore comunale, ha proposto alla giunta comunale l'intitolazione di una via della città a una delle figure più luminose del nostro tempo, San Giovanni Paolo II. Ha detto, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e dell'umanità intera. È stato il Papa del dialogo, della pace e della libertà. Ha saputo parlare ai giovani, avvicinare i popoli, difendere con coraggio la dignità dell'uomo contro ogni forma di oppressione e totalitarismo. È stato un simbolo di speranza per milioni di persone, credenti e non credenti, ha ancora aggiunto Savino. A Udine saranno proiettati domani due filmati propagandistici dell'emittente Russia Today, nonostante il diniego degli spazi da parte del Comune. L'associazione Ucraina Friuli sostiene l'appello del Consolato Generale dell'Ucraina contro la proiezione a Udine di filmati di propaganda vietati dalle norme europee. Entrambi i docufilm sono prodotti, come diciamo, da Russia Today, oggi RT, emittente di Stato russa, sottoposta a sanzioni dal 1 marzo 2022 in tutto il territorio dell'Unione Europea, con il divieto assoluto di trasmissione dei suoi programmi e delle sue produzioni, ricorda la nota, che specifica che entrambe le proiezioni distorcono pesantemente la realtà. In particolare, i bambini del Donbass mistifica come missione umanitaria quello che è un vero e proprio sequestro di massa di decine di migliaia di bambini, almeno 20.000 secondo uno studio dell'Università di Yale. Tale azione è stata condannata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa come atto di genocidio e presso la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Vladimir Putin e di Maria Alexeyevna Lvova-Belova, commissaria presidenziale per i diritti dei bambini in Russia. Alle 12.39 uno sguardo al meteo, che oggi è primaverile, cielo sereno, poco nuvoloso, le temperature: Trieste 15 gradi, Udine Gorizia 19, Pordenone 18, Tolmezzo 15, Forni di Sopra e Tarvisio 12 gradi e mezzo, Sappada 10, Piancavallo 8 gradi e 5 decimi, Montelussari 5 gradi e mezzo, Zoncolan 4 gradi e mezzo, Grado 16, Lignano 15 gradi e 5 decimi. Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Giuseppe Visalli. Il promontorio anticiclonico garantisce tempo stabile sulla regione da alcuni giorni, tuttavia nel corso delle prossime ore tenderà lentamente a spostarsi verso ovest, determinando l'afflusso poi nella giornata di domenica di correnti fredde, decisamente fredde per il periodo, di origine artica, marittima, che sostanzialmente determineranno un calo termico su tutta la regione che proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda però questo fine settimana, avremo nella giornata di sabato ancora cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con venti a regime di brezza, temperature massime ancora molto miti, superiori ai 20 gradi sulla pianura, tra 15 e 18 gradi invece sulla costa, temperature minime invece tra 4 e 7 gradi sulla pianura, tra 7 e 10 gradi sulla costa. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, avremo appunto il passaggio di un debole fronte freddo nel corso della notte, con delle deboli precipitazioni sparse, più probabili soprattutto verso sud-est, cioè tra Trieste, Lisantino e la Laguna. E poi nella giornata avremo cielo in generale poco nuvoloso o variabile, temperature in deciso calo con valori massimi non oltre i 15 gradi e temperature minime che si raggiungeranno poi verso la sera e la notte successiva. E soffierà vento moderato nel corso della notte, che diverrà poi sostenuto di bora nella mattina, con raffiche anche forti a Trieste, dove si potranno localmente superare gli 80 km orari. Dopo il picco della mattinata il vento inizierà a calare a partire dal pomeriggio. Poi l'inizio della prossima settimana appunto sarà caratterizzato da temperature sotto la media del periodo, ma correnti ancora secche, quindi con condizioni di tempo stabile. A Codroibo, l'ex polveriera della Mangiarotti è stata oggetto di un ambizioso progetto di recupero e riqualificazione ambientale e oggi inaugura un campo fotovoltaico. Da un sito industriale abbandonato ad un impianto di energia rinnovabile, 11.000 famiglie di Codroipo potranno usufruire del nuovo impianto solare fotovoltaico da 23,5 MW. Il parco sorge sul terreno abbandonato che per molti anni ha ospitato l'ex deposito di munizioni Mangiarotti. Un sito industriale storico per i codroipesi, un impianto che permetterà anche di evitare l'emissione di 22.000 tonnellate di CO2 all'anno. Significa 10.000 auto in meno sulle strade, un futuro sostenibile quindi in termini di energia e inquinamento, costruito dalla società che ha realizzato l'impianto e che ha avviato anche un progetto di recupero ambientale e storico con la piantumazione di arbusti di medio e alto fusto lungo il perimetro del parco fotovoltaico ed il restauro di elementi storici come il cancello d'ingresso, la fontana e la statua di Santa Barbara e l'installazione di pannelli didattici per conservare la memoria storica di un'area che ha fatto parte della vita circa dal 1930 di molte famiglie di Codroipo. Un esempio di equilibrio fra la tutela del paesaggio e della produzione di energia per l'economia di ogni giorno, quanto dichiarato dal sindaco Guido Nardini. Codroipo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine ha avviato una collaborazione con l'Università del Ghana nei settori della medicina e delle professioni sanitarie. Il primo passo sarà l'avvio di un corso di laurea in infermieristica nella regione di Shama. La partnership porterà in particolare allo scambio di studenti e docenti e allo sviluppo di progetti di comune interesse, a partire dalla disponibilità ad accogliere dottorandi e specializzandi ghanesi all'Università di Udine e da parte dell'Università ghanese di ospitare professori e ricercatori del Dipartimento di Medicina dell'Ateneo Friulano. La Regione ha deliberato il calendario scolastico per l'anno 25-26, le lezioni al via dall'11 settembre. Intanto le scuole si preparano alle novità sulla maturità appena emanate dal Ministro dell'Istruzione Valditara, novità che sollevano perplessità tra i sindacati. Per tutti la prima campanella del nuovo anno scolastico 25-26 suonerà l'11 settembre e la scuola terminerà invece il 9 giugno dell'anno prossimo, ad eccezione come sempre della scuola dell'infanzia che chiuderà il 27 giugno, 205 giorni di attività didattica per primarie e secondarie di primo e secondo grado, 221 per l'infanzia. Il calendario appena deliberato dalla regione tiene conto delle 10 festività nazionali cui si aggiungono le giornate di sospensione delle attività didattiche determinate da ciascuna regione per le vacanze natalizie di Carnevale e Pasquale e i ponti del 1 maggio e 2 giugno. Ciascuna scuola su queste date vincolate potrà poi in autonomia portare delle modifiche nel rispetto del monte giorni annuale da garantire agli studenti. Intanto alle scuole è giunta nei giorni scorsi l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione Valditara con le indicazioni per la maturità al via dal prossimo 18 giugno. Come requisito per l'ammissione all'esame ritornano i cosiddetti PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, 90 ore per i licei, 150 per i tecnici, 210 per i professionisti. penali. Per essere ammessi all'esame torna anche il voto in condotta, che non dovrà essere inferiore ai 6 decimi, e si dovrà avere anche la sufficienza in tutte le materie. Un punto quest'ultimo, ricorda il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Gervasutti, in contrasto con la normativa di riferimento, che prescrive invece l'ammissione motivata con insufficienza in una materia o gruppo di materie, e sul quale ANP ha già richiesto chiarimenti al Ministero. Dove sta la novità? Si chiede intanto al segretario regionale della CGIL Scuola, Gargiulo, che parla di ritorno al passato. Il voto in condotta, ricorda Gargiulo, era già stato introdotto oltre 15 anni fa dall'allora ministro Gelmini, ma risultò del tutto inefficace. Sui PCTO sospesi dalla pandemia, Gargiulo pone invece un problema di qualità dei percorsi e di come essi vengano recepiti sia dalla parte datoriale che dalle scuole. Difende l'esperienza l'assessore regionale all'istruzione Rosolen, che puntualizza: dal 2020 la regione ha in essere un protocollo con l'ufficio scolastico regionale che definisce in maniera puntuale con singole convenzioni tutti i soggetti disponibili alla realizzazione dei percorsi, garantendo un sostegno anche a quelli rivolti agli studenti con disabilità. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Cominciano oggi le trasmissioni organizzate dalla nostra sede in vista delle elezioni comunali di Pordenone. Oggi sono ospiti dei nostri studi la candidata e i 3 candidati alla carica di sindaco. La tribuna verrà trasmessa alle 13:15 su Rai 3 a diffusione regionale, con una replica radiofonica su questa stessa rete alle 23:05. L'attore e drammaturgo Giovanni Scifoni è autore e protagonista dello spettacolo intitolato Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in cartellone a Gorizia, al Teatro Verdi, alle 20:45. Sul palco il racconto del santo, affrontato con uno stile ironico e una narrazione in equilibrio tra teatro e musica, che punta a far emergere un Francesco pop, capace di predicare come un attore di teatro contemporaneo, usando corpo, voce, lingua francese, oltre che la natura, il dolore, il silenzio. Abbiamo intervistato Scifoni per chiedergli come è nata l'idea dello spettacolo. Di San Francesco hanno parlato praticamente tutti e quindi io la prima volta che mi proposero di scrivere un spettacolo di San Francesco ho detto ma non c'è nessun bisogno che anche Scifoni scriva uno spettacolo di San Francesco, proprio non ce n'è bisogno. Poi mi sono avventurato dentro le fonti francescane e Francesco ti sequestra, cioè è come se ti chiude dentro una stanza e ti riempie le botte, perché proprio ti affascina. Mi ha affascinato come forse nessuna figura storica prima di lui, e diciamo tutti conoscono il San Francesco poverello, no? Che ha lasciato tutto, che ha abbandonato ogni tipo di proprietà, i vestiti, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Però e questo io nello spettacolo non lo affronto quasi per niente, affronto un'altra tematica, che è quella che mi ha colpito sicuramente per motivi biografici, che è il rapporto che Francesco aveva con la vanità, con il successo, perché era famosissimo, era uno dei giovani più famosi del Medioevo, e poi dopo morto è diventato senza dubbio il santo più famoso di tutti i tempi. E quindi mi sono interrogato e ho cercato di capire come Francesco affrontasse il fatto che era famoso. Io che con la fama un po' c'è campo, la poca fama che ho mi permette di mantenere 3 figli, insomma, come sono fatto questa domanda. Qual è stata la sfida per lei nel portarlo sul palcoscenico? Beh, la grande sfida è quella di riuscire a raccontare Francesco nella sua molteplicità di facce che ha, perché Francesco non aveva una faccia sola, ne aveva tante. Era molto contraddittorio, era una persona molto poco classificabile, e quindi è molto facile, quando vai a raccontare Francesco, di dargli un'immagine molto parziale, convenzionale. Chiaramente ogni volta quando racconti Francesco non riesci a raccontarlo tutto, e io cerco di raccontare più che posso, insomma. Si intitola I luoghi sacri che uniscono i cammini di pellegrinaggio, la conferenza a cui interverranno lo scrittore Davide Gandini e padre Robert Bacic per parlare del senso profondo del viaggio interiore condiviso sotto la lente, la spiritualità del cammino, il suo valore universale, la sua capacità di unire popoli e culture. Ad Aquileia, in Basilica, alle 20:30. Non si rivolge solo agli studiosi, ma anche a chi si propone di avere una guida per intraprendere la lettura del capolavoro letterario dello scrittore James Joyce, Ulisse. Il gruppo di lettura Ulysses Reading Group, che verrà condotto in italiano, in inglese, anche in dialetto triestino, in omaggio all'autore irlandese e alla sua vocazione plurilingue. Appuntamento a Trieste, nello spazio Forum del Museo Letz, in piazza Ortis, alle 17:00. a Laura Pelaschiar, docente di letteratura inglese dell'Università di Trieste e ideatrice dell'iniziativa, abbiamo chiesto una presentazione del progetto. Si tratta di proporre quello che succede in altre città, non solo veneziane, un po' in tutto il mondo, cioè la lettura collettiva di Ulysses di Joyce, che è un libro straordinario ma che presenta comunque delle difficoltà, se non altro iniziali. Poi una volta che ci si roda e si entra dentro al meccanismo, le cose diventano in quanto meno praticabili, non come lo sono con altri testi, con tipi di scrittura e stili più tradizionali, però ci si abitua e poi non si molla più. Si tratta di trovarsi insieme, qualcuno che un po' guida la carovana in questa traversata di terre sconosciute, quella sarò io, e poi la lingua sarà un po' l'inglese, un po' l'italiano, il triestino dovrà esserci, perché comunque siamo a Trieste, Joyce il triestino lo parlava e continua a parlarlo in famiglia anche dopo essersene andato. Saranno incontri molto informali ma anche molto seri e io spero anche molto divertenti, quindi nulla di intimidente, aperto a tutti, a chi sa, a chi non sa, a chi parla l'inglese o a chi non lo parla, vediamo un po' cosa succede. Saranno appuntamenti settimanali? Saranno appuntamenti settimanali, comunicherò il calendario per come lo abbiamo adesso, perché la sala era già piena di appuntamenti, quindi ci siamo un po' infilati, ma solitamente i giorni saranno venerdì, sempre intorno alle 17 oppure alle 18, un paio di volte il giovedì in sostituzione del venerdì che era già stato prenotato, questo fino a giugno, e poi a settembre vediamo un po' come riprendere. E parliamo di sport. L'Udinese caccia di punti questa sera alle 20:45 sul campo del Genoa. Pesanti le assenze tra i friulani Tovin, Sanchez e Davis. La Pallanuoto Trieste giocherà la penultima partita del campionato della massima serie contro l'Ortigia Siracusa. In palio il quarto posto e la conseguente qualificazione alle semifinali scudetto. L'incontro alla Bruno Bianchi con inizio alle 21 e ingresso gratuito, diretta TV su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. Il direttore della Coppa del Mondo femminile Peter Gerdol era ospite ieri sera dell'Associazione Alpina Slovena di Trieste Espedete. Al centro del suo intervento l'incidente è capitato a Federica Brignone e poi il ritorno della Coppa del Mondo a Tarvisio. Peter Gerdol, da 6 anni direttore della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Quest'anno Federica Brignone ha conquistato la sfera di cristallo più importante per la seconda volta, ma è stata vittima di un infortunio importante. Sì, purtroppo sì, è successo questo infortunio durante i campionati italiani. È un brutto infortunio, purtroppo devo dirlo, fa parte dello sport agonistico, è successo in passato, succederà anche in futuro, ovviamente dispiace moltissimo quando succede a chiunque, ma agli atleti di punta ancora di più perché sono più rappresentativi. La Coppa del Mondo di sci alpino deve fare i conti anche con il cambiamento climatico, quali sono le vostre direttive, le direttive della FIS per i prossimi anni? Ma noi cerchiamo di razionalizzare il calendario, cerchiamo di andare in posti dove il rischio è minimo o dove si può minimizzare il rischio. Ovviamente il rischio di annullare delle gare, di non avere delle gare o di non avere la neve c'è sempre e dobbiamo tenerne conto. Il presidente della FISI, Flavio Roda, ha dichiarato che la Coppa del Mondo tornerà a Tarvisio. Quando avremo la conferma definitiva? Adesso Tarvisio è nel calendario per l'anno prossimo. Questo calendario io lo presenterò alla prossima riunione di primavera, che sono la prima settimana di maggio in Portogallo. Verrà approvato, poi però la conferma definitiva la darà il FIS Council, che sarà molto probabilmente nei primi giorni di giugno. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Mauro Ciccarelli. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.